Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. C'è questo di bello in Coppa, che nulla è scontato, se non un vecchio adagio in base al quale alla fine conta soltanto mettere la palla dentro, sicché avendola messa dentro non solo alla fine ma anche all'inizio della sfida del Camp Nou, il Milan è uscito indenne pur non avendo toccato letteralmente terra per almeno un'ora filata nel cuore della partita. I commenti di alcuni protagonisti, cominciando, secondo me, almeno dal protagonista assoluto, che è Nesta. Non puoi rischiare tanto a volte, perché se vieni saltato loro facilmente ti saltano, poi si trovano uno contro uno, perciò abbiamo un po', diciamo, così dice in gergo, rinculato e poi aspettato il momento giusto per andare a prendere la palla. Ma come siamo venuti qua? Abbiamo giocato contro il Barcellona, sapendo che noi siamo il Milan, e sicuramente andremo a Napoli con la stessa voglia di vincere, ce la metteremo tutta. Abbiamo preso dei gol un po' stupidi, il primo soprattutto, schizzata via questa palla, non abbiamo un po' tanto seguito, però penso che abbiamo fatto una buonissima fase difensiva contro gente che sa giocare veramente bene. Beh, sulla fase difensiva non c'è dubbio, e quella di Nesta in particolare, credo di aver contato almeno tre situazioni salvate personalmente da lui, e proprio nella fase in cui, fase di un'oretta abbondante, in cui Milan non riusciva a tenere palla, non riusciva a respirare, giocava anche in 10, è vero, perché Cassano aveva la macchina fotografica al collo e stava probabilmente riprendendo scorci pittoreschi del Camp Nou, e quindi già sarebbe stata durissima in 11, figurati in 10, e ti viene a mancare l'uomo che dovrebbe, per l'appunto, già mancando Ibrahimovic, dovrebbe prendere palla, tenerla, difenderla e provare a farti salire e a farti respirare. Il commento di Guardiola su questo pareggio: sempre si impara, quando vinci si impara, quando perdi si impara, quando si pareggia si impara, sempre ci sono delle cose che si può. Il calcio non si finisce mai, non si ferma mai, sempre si fanno cose a migliorare, e niente, siamo contenti per quello che abbiamo fatto, per la prestazione che abbiamo fatto, che abbiamo stato un grandissimo livello. Giudicare il risultato, siete voi. Hanno fatto delle cose buone, noi pure noi, e alla fine quello che è. Sentiamo poi i vostri commenti in diretta, potete cominciare a prenotarvi se volete. Nel frattempo ne ho ricevuti molti, ma molti davvero in mattinata, per iscritto. Per esempio Andrea Dolci scrive: serata quasi perfetta, mi sono goduto il Barcellona e il mio Milan non ha perso. Abbiamo subito, eufemismo, senza essere presi a pallate, e nella sua ingiustizia il risultato non è così assurdo, visto che raramente siamo andati in affanno. Nonostante un possesso palla percentualmente imbarazzante, alla fine comunque di occasioni su azioni ne hanno confezionate ben poche. Altra piacevole notazione: l'assenza di fallaci e di frustrazione, ma qui l'assenza di Gattuso e Flamini ha dato una mano. Resta invece la spiacevole sensazione che il divario tra loro e il calcio italiano sia veramente abissale per qualità e per mentalità. Questa era una delle analisi, adesso se ne sentiamo un'altra, l'altro allenatore in campo, cioè Allegri. Abbiamo giocato una partita importante, in condizioni fisiche sicuramente non al top, visto che abbiamo giocato poche partite, però la squadra ha fatto bene all'inizio, avevamo avuto l'occasione per fare il 2-0, altre due o tre situazioni favorevoli, poi ha difeso molto bene contro una grande squadra che è il Barcellona, abbiamo concesso poco e niente a questa squadra, e quindi credo che alla fine siamo stati premiati, qualcuno dice in modo fortunato, però credo che sia stato un bel premio per quello che hanno fatto i ragazzi stasera in campo. Era importante fare una partita del genere, ragazzi l'hanno fatta, soprattutto dopo il 2-1 non ci siamo disuniti. Non c'è differenza, il calcio è questo, il Barcellona sfrutta le caratteristiche che ha, le qualità dei propri giocatori, il Milan sfrutta le sue. Abbiamo concesso poco e niente, sinceramente non è male, sembra una battuta, chissà se lo era, ho il timore invece che fosse abbastanza convinto di questo. D'altra parte 62 minuti in campo Cassano ieri sera possono anche spiegare il fatto che Allegri forse non fosse nella sua serata più lucida, no? Né durante e né dopo. Un'altra mail firmata questa Marco Traversi: Milan dignitoso di cuore, dignitoso nel capire che poteva solo limitare i danni aggrappandosi alla classe di Nesta e di Thiago Silva, oppure all'applicazione di altri, per esempio di Abate. Di cuore perché quell'angolo al 92esimo l'ho costruito con voglia e fatica e l'esecuzione poi è stata magistrale. Insomma, si può uscire dal Camp Nou indenni senza randellare come disperati per 90 minuti in campo e in conferenza stampa, prima e dopo. Bravo Milan, ma le orecchie della Coppa, salvo cataclismi, le vedo già infiocchettate di blaugrana. Dipenderà solo dal Barça. Firmato, ripeto, Marco Traversi. Spostiamoci. Perché tra poco faremo una, intervallandola con i vostri interventi, faremo una panoramica sulla serata di oggi, in cui le squadre italiane, come sapete, impegnate sono due. E allora cominciamo a sentire la vigilia dei due allenatori, cominciando da Gasperini. Una partita dopo quella di Palermo bisogna porre dei correttivi, ma questo è comunque sempre, si è vista una squadra un po', cioè, piuttosto sfilacciata in questo, e deve recuperare un migliore equilibrio, tra la soprattutto quando si perde palla, cioè, questo è il dato più evidente che è balzato agli occhi un po' di tutti e anche di noi. Su questo possiamo rimediare, pur mantenendo altre situazioni che sono state molto positive. E su quello dobbiamo lavorare, indipendentemente dal modulo, che ha una sua valenza iniziale, ma non è così determinante. Questa era la vigilia di Inter-Trabzonspor nelle parole di Gasperini. Adesso sentiamo quella, insomma, tutto sommato più emozionante, certamente più suggestiva, di Manchester City-Napoli nelle parole di Mazzarri. I giocatori, quello che provano, poi alla fine sono loro che vanno in campo, sono gli attori principali, sono ragazzi giovani, non hanno mai fatto, la maggior parte della mia rosa non ha fatto la Champions, probabilmente un po' di emozione, ma io spero che scompaia subito dopo i 2-3 minuti iniziali, come di solito accade ai giocatori che comunque sono allenati già a fare il campionato di Serie A, a fare le coppe europee magari di livello inferiore, ma insomma non siamo proprio degli sprovveduti, ecco. Paura, sono forti, bisognerà stare attenti, se vogliamo ottenere o sperare di ottenere un risultato positivo bisogna che tutti i fattori coincidano dalla nostra parte, però noi ci proveremo, abbiamo anche noi il nostro gioco, abbiamo dei giocatori importanti che possono far male e vogliamo giocarcela così, senza fare calcoli, pensare al girone, non pensare a niente, pensare domani c'è una grande partita da affrontare al meglio e alla fine al 95esimo, come uso dire, vedremo cosa saremmo stati capaci di fare. Sei il solito incompetente, scrive Piero. La colpa del gol è di Nesta, altro che migliore in campo. Ma la colpa del gol mi sembra che semmai sia di Abate. Se proprio vogliamo dare una colpa, che secondo me non c'è, perché la velocità di Messi in quell'azione è la solita ed è dirompente. Ma Abate, che è a sua volta velocissimo, pensa di poterlo arginare col corpo e non scatta come dovrebbe scattare, perché in quel caso sarebbe arrivato per prima, la palla l'avrebbe messa in corner lui anziché prenderla Messi e girarla in mezzo all'area in quella maniera. Ma Nesta non è stato ammonito due volte, domanda un altro ascoltatore. No, la prima volta sembrava fosse stato ammonito, anche perché onestamente era entrato un po' altino sul ginocchio di Messi, e invece è stato ammonito Van Bommel per proteste in quell'occasione. Un breve approfondimento internazionale in compagnia di Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Dico breve perché chi sta seguendo in questo momento Sky Sport 24 sa che sei in onda e sa che ti dobbiamo ringraziare perché ti sei brevemente staccato dalla conduzione. Sempre un piacere, volentieri. Beh, ma lo facciamo veramente per pochi minuti. Allora, tre cose. La prima è la diagnosi di AS e di Marca, cioè dei quotidiani spagnoli. Il AS in particolare scrive: il Barça ha un problema grave e il problema è la scarsa concentrazione che ha permesso al Milan di andare a segno al primo e all'ultimo minuto dell'incontro e comunque di rimontare un Barcellona già rimontato dal Real Sociedad in campionato. Il Marca scrive più o meno la stessa cosa, dicendo che già contro la Real Sociedad erano stati numerosi gli errori su corner e falli laterali. Mal de altura titola Marca, perché la sofferenza sul gioco aereo ieri sera si è vista. Io credo che si apra anche uno scenario, nel senso che poi Guardiola dovrà decidere sulla difesa a 3 o la difesa a 4, ma se fa la difesa a 4 e mette Mascherano e Busquets nella Liga, a parte contro il Real Madrid, se lo può permettere e può fare comunque un figurone. Contro attacchi diversi no, e l'assenza di Piqué secondo me ieri sera è risultata clamorosa, nel senso che ha evidenziato sia sul gol di Pato che sul gol di Thiago Silva la mancanza veramente di uno dei difensori più forti del mondo. E quindi credo che da un lato sia anche opportuna questa critica, che è sempre un filino madridista per quanto riguarda i giornali che hai citato tu, perché già il Mondo Deportivo titola Martes 13, cioè martedì 13, tirando in ballo la scaramanzia, visto che i gol li ha presi al primo all'ultimo minuto e si è infortunato Iniesta. Però credo che faccia bene al Barcellona una riflessione da questo punto di vista. È una squadra che come palleggio non è seconda a nessuno, e anche ieri l'ha dimostrato, però quando lo fa a una velocità inferiore diventa più prevedibile, e credo che ieri sera il Milan abbia tracciato una strada, non nuova, ma una strada che possa essere seguita per cercare di fermare il Barcellona. Senti, io tornerei su quel primo gol, perché va bene, i limiti, cioè così come conosciamo la grandezza del Barcellona, ne conosciamo che ovviamente, insomma, i cui pregi sono certamente superiori ai limiti, qualche limite abbiamo imparato a conoscere in questi anni, no? di villaggio globale in cui si vede tutto e si può commentare tutto. A me ieri sera il primo gol, cioè quello preso dopo, perché sai, dice gol da palla ferma, beh, nel primo caso la palla ferma era la palla al centro, no? Perché cominciava la partita. Ecco, è chiaro, manca Piqué, che per me è il più grande difensore del mondo attualmente, o uno dei, ma insomma per me è il. Ma al di là di questo, mi è sembrato che questa difesa sempre più fatta di centrocampisti, questo modo sempre più elegante, no? Di approcciare la partita, mi ha ricordato questo gioco erotico estremo, no? Che purtroppo è tragicamente andato in prima pagina nei giorni scorsi. Perché? Perché ho l'impressione che il Barcellona stia cercando libidini sempre nuove, no? E che poi alla lunga magari possono pure costare care. Guarda, oggi Mario Sconcerti sul Corriere l'ha definito un petting prolungato. Poi le espressioni possono variare, la coloritura pure. Però è vero, io trovo che il Barcellona in queste giornate abbia evidenziato un limite, che è quello della concentrazione, che è un limite soprattutto quando accade all'interno della partita, perché quando il Barcellona con la Real Sociedad era concentrato è andata pronti via 2-0, partita stradominata, poi perdi la concentrazione, un po' come vincere i primi due set contro un avversario inferiore nel tennis, e poi però devi giocare anche il terzo, e se regali a certi livelli gli altri prendono. Quindi con la Real Sociedad è finita 2-2, col Milan è finita 2-2, non dimentichiamoci che questa partita giocata in un ottavo di finale o in una semifinale o in un quarto, cioè in una partita andata e ritorno, sarebbe un risultato disastroso per il Barcellona, che sarebbe costretto a venire a Milano a vincere. È un risultato che viene ammortizzato facilmente nel girone di qualificazione, quindi in realtà è anche una buona notizia per il Barça, che prende un buffetto, si ricorda che per vincere le partite le deve giocare per tutti i 90 minuti e non partire ad handicap come ha fatto ieri sera, e soprattutto credo che Guardiola contro certi avversari, potendoli avere, poi ieri Piqué non ce l'aveva e Puyol comunque reduce da un infortunio, uno di questi due centrale credo che lo metterà sempre. Appunto, per lasciarti tornare rapidamente al tavolo di conduzione, va bene, Manchester, Napoli e Inter Trabzonspor ci interessano da vicino. Qual è l'altra, o quali sono l'altro paio di partite a cui stasera dobbiamo trovare il modo di buttare un occhio? Guarda, secondo me questa è una serata anche più interessante di quella di ieri, complessivamente, perché certo. Villarreal Bayern di Monaco è una bellissima partita. Ovviamente c'è la curiosità di vedere l'Inter ridisegnata da Gasperini col Trabzonspor, e Manchester City-Napoli è inutile che ne parliamo. Però io credo che ci siano un paio di sottoclù interessanti, ad esempio Benfica-Manchester United mi piacerebbe molto vederla. Oggi Alex Ferguson, contrariamente al suo aplomb, ha detto che Wayne Rooney è il nuovo Pelé, quindi non è andato bassissimo con i paragoni. Sono anche abbastanza curioso di vedere il Real Madrid a Zagabria, un po' perché non c'è Mourinho in panchina, dovrebbe dirigere dall'albergo, e poi perché comunque non è un campo facile quello di Zagabria, anche se poi la differenza di caratura è evidente. Tra i sottoclù c'è anche Ajax-Lione, che comunque un'occhiata la merita, direi che per il resto Basilea, Otelul, Galati e Lille, CSKA Mosca, ecco, diciamo che Lille, CSKA Mosca può interessare, giusto perché sono due avversari dell'Inter. Sì. Però complessivamente questa sera ci sono 4-5 partite, tutte abbastanza godibili. Bene, e quindi la sintesi complessiva e la controprova, o meno, se sarà stata la serata di oggi complessivamente più interessante di quella di ieri. Domani regolarmente alla stessa ora. Adesso torna al desk. Grazie, con grande piacere, ci risentiamo domani. Grazie, grazie. Ciao. A Fabio Tavelli. Antonio in linea da Pisa, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare due brevi considerazioni. Una, diciamo, di carattere un po' così tecnico, volevo sapere il suo parere, perché a me sembra che, oltre che dal punto di vista tecnico, che il Barcellona è più forte, insomma, si è proprio visto, nel senso che il pareggio non era meritato. Io sono stato contentissimo che sia stato raggiunto, però obiettivamente appunto non si è toccato boccia per un'ora. Però secondo me è proprio anche psicologicamente il Milan era spaventato, nel senso che anche quando aveva palla la perdeva con una facilità incredibile, e quindi oltre che da quello tecnico, secondo me proprio hanno sbagliato l'approccio psicologico. E la seconda considerazione invece, la grande delusione del commento Rai che c'è stato poi in chiaro, nel senso che appunto hanno fatto questi grandi elogi del Milan solo perché è entrata la palla di vabbè, ma lì è la filosofia del risultato, insomma, non, io credo che ci siano, lascerei perdere, cioè vedrei di non infierire. E invece mi sembra interessante la prima notazione. Io credo questo: dopo una partita come quella di ieri, dopo un andamento di partita come quella di ieri, e tenendo conto anche del risultato positivo e comunque del fatto che se esci imbattuto dal Camp Nou hai comunque in questi anni hai comunque fatto un'impresa. Ho sentito quelle frasi di Allegri di prima e spero recitasse, cioè nel senso che se davvero il Milan pensa ieri sera di aver fatto una buona partita, allora è preoccupante. Questo ritengo io, nel senso che il Milan ha fatto una buona partita a livello individuale in 3, 4, 5 difensori o centrocampisti di, come dire, contenimento e di sofferenza, ma il Milan, non un'altra squadra italiana, il Milan con la sua vocazione europea, con la sua propensione al gioco storica addirittura, non soltanto di questi anni, ma che risale molto molto indietro, il Milan che non tocca il 30%, non arriva al 30% di possesso palla, ma al di là di quello, perché il Barcellona te lo toglie, perché il Barcellona ogni tanto col pallone ci esagera anche un po', se vogliamo tornare alle metafore di prima, si masturba pure un tantinello col pallone tra i piedi, ma il Milan che non riesce per un'ora e passa a fare tre passaggi di fila e a superare la metà campo in maniera significativa, cioè va a sapere se in contropiede, puntando davvero la porta o semplicemente per far respirare, insomma, lo trovo molto deludente. E quindi insomma, è importante secondo me per il Milan che questo risultato non venga vissuto come un premio a una serata positiva, ma venga vissuto come un accadimento quali nel calcio davvero non mancano. Andrea, provincia di Macerata, buongiorno. Sì, buongiorno. Io niente, due parole sul pareggio di ieri sera del Milan. Al di là della considerazione fatta da lei, io mi sono reso conto oggi leggendo giornali, guardando la TV, che anche giornalisti esaltano in maniera spropositata il pareggio di ieri sera del Milan. Non, e a me sinceramente, da quando seguo il calcio, la parola impresa per un pareggio demeritato, tra l'altro, non era mai neanche fosse stata l'Udinese. Ma insomma, sul demeritato ci andrei poi pianino, perché mi ha segnato due gol molto belli, tutte e due. Che poi ci sia stata una coproduzione della difesa del Barcellona è un altro discorso, ma i due cose sono stati molto belli. Negli ultimi 5 minuti, quando il Barcellona è calato, o quando forse si è illuso e aveva già chiuso la partita, il Milan ha provato a pressare, e quel calcio d'angolo l'ha ricavato da due pressing consecutivi, uno direi di Abate su Pujol, che palesemente non è ancora in condizione di rientrare, e quello subito successivo di Nocerino, che poi ha causato il corner vero e proprio di Nocerino su Abidal, anche forse leggermente falloso, ma non importa, è un dettaglio. Vuol dire che ci stavano credendo, quindi secondo me immeritato no, se parliamo di occasioni e se parliamo di legittimità dei gol, se parliamo di predominio complessivo, di superiorità, di calcio, di tutto il resto, no? E non solo di estetica, beh, insomma, l'abbiamo già detto, è inutile continuiamo a ripeterci. Se proprio vogliamo trovare un colpevole per il primo gol del Barça, scrive Giovanni Silvestri, direi Zambrotta, che invece di guardare la partita doveva fare diagonale su Pedro. Giovanni, rosso nero al 100%, questa è la firma. Al messaggio, spendiamo un po' di miele per Clarence Seedorf, scrive invece Giuseppe Triceri da Milano, fino a che gli anni e la vigoria l'hanno sostenuto, sembrava giocasse con la maglietta sbagliata. Sì, ha giocato una mezz'ora sontuosa, Seedorf soprattutto quella sul centro sinistra di sacrificio a proteggere Zambrotta e a ingaggiare duelli anche strepitosi in certi momenti sia con Dani Alves che con Messi a seconda delle fasi. Poi è calato, evidentemente è calato e si è riavuto un tantinello poi ad un certo punto, ma ha passato dei momenti di apnea vera. Vi confesso però che sto facendo molta fatica a tenere dietro oggi alla routine perché la testa, anzi il cuore, è con Walter Bonatti, che è morto la scorsa notte a Roma. Io non so se tutte le persone all'ascolto, cioè magari non i più giovani, sanno chi sia stato Walter Bonatti. Un gigante, ecco, io direi molto semplicemente un gigante della montagna, prima, poi dell'avventura, dell'esplorazione di ogni angolo più remoto del mondo, ma anche dell'esplorazione di se stessi. È uno scalatore formidabile, insomma, le sue imprese sul Cervino, sul Bianco, su tante altre montagne. Questo è il Bonatti che più è rimasto nell'immaginario collettivo, sul K2 soprattutto, che moralmente fu lui ad espugnare, ma ci volle più di mezzo secolo perché la verità pochissimi anni fa gli rendesse finalmente giustizia. E poi in questi ultimi anni è stato un grande narratore, scrittore, affabulatore. Io vorrei ricordarlo con due frammenti di alta riflessione, davvero tratti da Che tempo che fa, di un paio di stagioni fa, direi 2009, sentiamo. L'alpinismo, che è un piacere in fondo, è un modo di conoscersi, un modo di misurarsi, ecco, per me è mi sono creato da solo una mia ragione di essere, un mio perché delle cose. E non potevo che scegliere una esplorazione che più che fisica fosse introspettiva. Beh, l'uomo è fatto per superare i suoi limiti, l'uomo è fatto di curiosità. Tu, passando attraverso queste prove estreme, ti formi, ti crei, diventi quello che l'entusiasmo, la curiosità e la voglia di sapere chi sei e il misurarti al limite del possibile. Tu, quando hai raggiunto quello che ti sembrava impossibile, ne vieni fuori con un'esperienza tale che sei ancora più forte di prima, capisci? È sempre un crearsi, sempre di più. La montagna ti crea. Io ho un grande rispetto della paura, però senza la paura non può esistere neanche il coraggio. Il coraggio di vincere questa paura. E alla fine io posso dire: Ho sempre vinto la paura. Aveva 81 anni Walter Bonatti ed è curioso, forse anche più è emblematico, che nei giorni scorsi, lo ricorda stamattina la stampa, che ancora non sapeva di questa tragica notizia, di questa tragica scomparsa, è emblematico che la scorsa domenica si fosse squagliato una parte consistente del Dru. Il Dru è una delle cime più significative del gruppo del Bianco ed era stata teatro di una delle imprese giovanili di Bonatti negli anni 50. Aveva scalato questo pilone ovviamente in prima assoluta in maniera incredibile, che aveva fatto epoca, e purtroppo in questa fase di cambi climatici, come è accaduto sulle Dolomiti tragicamente, come sta accadendo su tanti versanti, le montagne si stanno purtroppo davvero in parte sgretolando, e anche un gigante come Bonatti si è dovuto arrendere. Io sentirei ancora un frammento, perché lo so che questo non è sport in senso stretto, per come siamo abituati a concepirlo, a viverlo oggi. Oggi lo sport è diventato spettacolo. Beh, forse se ogni tanto ci capita con un grande italiano come è stato Bonatti di ripassare i fondamentali, male non ce ne fa. Sentiamo quest'altro frammento. tutto questo, questi pensieri, queste riflessioni, ti vengano nella notte di bivacco che è eterno, specialmente l'inverno, perché le notti sono lunghissime. Quindi le riflessioni, tu sei dialoghi, è un monologo il tuo costante, e quindi puoi pensare queste cose ed altre cose ancora più difficili. Mentre invece, quando c'è l'azione, cioè incomincia il giorno, allora lì bisogna aver paura dei pensieri. Bisogna aver paura, e a un certo momento io mi sono trovato proprio sul Cervino nella necessità di prendermi per mano e calibrare qualsiasi mio movimento, perché questo stato di cose ti porta a ignorare la sicurezza. E allora devo ritrovare me stesso con tutta la responsabilità che ho verso la mia vita, la mia salvezza, per poter fare una scalata del genere. La solitudine per me è il momento più magico della vita di un uomo, perché finalmente il dialogo si sostituisce al monologo, alla riflessione, quindi è molto importante, ma non soltanto nell'alpinismo, in tutti i momenti della vita. Addio a Walter Bonatti. Carlo da Mantova, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Una considerazione sulla partita del Milan di ieri sera, visto che tutti dicono, gli addetti ai lavori, insomma, il Barcellona è la squadra più forte del mondo in questo momento. Ritengo che il Milan abbia fatto una partita molto intelligente, perché poi andare a Barcellona, giocarla a viso aperto, tornarsene con tre pere e dire vabbè, però abbiamo giocato bene, comunque si è perso. Credo che la cosa più giusta che abbia potuto fare il Milan, li ha colpiti nei momenti più brutti per una squadra, perché all'inizio e comunque a un minuto dalla fine, il Milan si è difeso con ordine e non ha concesso spazi, perché mi sembra che il Barcellona nel secondo tempo poi non abbia prodotto queste grandi quantità di occasioni da rete. Ha tirato poche volte in porta. Beh, Carlo, Carlo, sì. Adesso, quando però te li porti sull'uscio di casa e li lasci scorazzare lì per quasi un'ora di fila, diciamo che non sempre può andare come ieri sera, no? Andare come ieri sera, ma nel momento che è andata, nel calcio occorre la concretezza. No, perché... ma infatti, se parliamo di risultato e di filosofia del risultato, che è l'unico che conti, allora ha certamente ragione lei. Se parliamo di questo girone di qualificazione, e di questo si sta parlando per il momento, è certamente un risultato positivo, anzi prezioso. Se parliamo in assoluto e in prospettiva, io credo che io dal Milan sinceramente mi aspetto di più a Barcellona, a costo magari di perdere la partita, ma proprio perché ci sono altre due ramazze nel girone, mi immaginavo, forse sbagliando, un altro genere di partita. Mi immaginavo l'accettazione in una sfida, no? È chiaro che loro ti sfidano sul piano del palleggio e sul piano dell'eleganza e del gioco cucito, del tocche, come lo chiamano loro, e mi aspettavo che il Milan questa sfida la raccogliesse un po' di più, e invece non è stato all'altezza di raccoglierla. A capo ha fatto due gol molto belli, uno all'inizio e uno alla fine, come dice lei, nei momenti che più fanno male. Luigi Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Sì. Ma io mi collego praticamente all'ultimo ascoltatore. Vorrei non essere una mosca bianca in tal senso, però vorrei capire una cosa. Non riesco a capire il motivo per cui ogni qualvolta il Barcellona incappi in una serata non completamente felice, vuoi magari perché pareggia, ma raramente, fortuna sua, perde molto molto di rado, ma ogni qualvolta succede questo, c'è sì il momento in cui si fa i complimenti alla squadra avversaria, ma c'è sempre un ma davanti. Sì, ma non si gioca così. Sì, ma il Barcellona ti ha schiacciato. Sì, ma la sua palla è emblematico. Ma come si deve giocare? Ha detto ma anche lei, eh? No, ma... Ha appena detto ma. Ma come si deve giocare? No, intendo dire. Avendo la squadra avversaria, vuoi il Milan ieri sera, ma qualsiasi altra squadra, la pari dignità di dover comunque portare a casa un risultato, perché il calcio, a meno che il regolamento non sia cambiato notte e tempo, cioè, valgono i punti, vale chi fa gol, insomma, voglio dire, è una regola principe. Il giorno che si vincerà i punti, allora cambieremo discorso. Ma per pari dignità, ma io mi dovrò mettere in campo in maniera tale da evitare che questi qua mi schiaccino, cioè non è che... Ma non ci sei riuscito, Luigi, e questo è il problema su cui non ci intendiamo. Dopodiché, le ripeto, non me ne può fregare di meno in una giornata come oggi. Sto leggendo i messaggi che arrivano in memoria di Walter Bonatti e sinceramente questi discorsi, le ripeto, colpa mia oggi, ma mi lasciano davvero il tempo che trovano. Sto dicendo però che esistono altri modi di non subire quella superiorità, cioè deve esistere un modo di non subire così nettamente quella superiorità che quasi sempre è foriera di sconfitta, poi non lo è stato ieri sera. Io ripeto, tra la disamina di Allegri e quella di Galliani, io condivido di gran lunga quella di Galliani, che mi è sembrata molto più lucida e molto più costruttivamente autocritica. Detto da me di Galliani, lei capisce che siamo oggi sono proprio oltre. 14 settembre, non una data allegra, no? Come avete sentito, per via della morte di un grande come Walter Bonatti. Sentiamo che cosa è accaduto in passato e ci racconta Nicola Filippone. Sembra ieri. 14 settembre 1977. La Fiorentina di Carletto Mazzone esce dalla Coppa UEFA per una grave disattenzione dei dirigenti, che si dimenticano che Gianfranco Casarsa deve ancora scontare una squalifica. L'attaccante friulano gioca nell'andata del primo turno al Comunale contro lo Schalke 04, con il risultato che lo 0-0 sul campo viene tramutato in un 3-0 per i tedeschi, che si imporranno anche al ritorno per 2-1. Per la Fiorentina è il pessimo inizio di una stagione tormentata, in cui si avvicenderanno tre allenatori e la salvezza sarà conquistata solo all'ultima giornata, per una migliore differenza reti rispetto a Foggia e Genoa. Curioso, un episodio curioso. Roberto ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, mi scusi perché sono un pochino emozionato. Sì. Dunque, io sono molto dispiaciuto per la morte di Bonatti, perché a 81 anni era un uomo che ha visto travolti, montagne, scalato qualsiasi cosa. Ed è un peccato che così, siccome anch'io vado in montagna, anch'io che ho fatto le scalate che ha fatto Bonatti, però insomma comunque c'è una riflessione da dire, che quando si va in montagna, che si fanno magari dei percorsi abbastanza difficili, uno magari o non può fare, o non è con la gente o è praticamente da solo, e lei vede praticamente la vita com'è, pensa all'indomani, insomma, queste scalate che si fanno, questa montagna, questa anche fatica, perché è praticamente faticoso andare su, e sono delle cose bellissime. Grazie Roberto, grazie, buon pomeriggio. Enzo dalla provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno, senta, io telefono per parlare del Barcellona, pensando che forse è la squadra che più si avvicina al Milan di Sacchi, in quanto estremamente corta, una squadra che impone il proprio gioco in Europa indipendentemente dagli avversari, anche se io devo dire, penso che il Milan di Sacchi sia stata superiore dal punto di vista fisico e per una difesa molto più compatta. Per questo volevo chiedere il suo parere, insomma. Sì, no, non è il mio parere, nel senso che l'altra è una grande squadra, però abbastanza tanto diverse tra loro. La squadra di Sacchi, pur essendo così duttile, così ben amalgamata, era comunque ancora una squadra di specialisti. Il Barcellona è oltre, oltre non vuol dire che è meglio, intendiamoci, ma è oltre nella filosofia, nel senso che lo specialista non c'è più. La squadra di Sacchi aveva delle punte, adesso prendo la punta giusto per capirci, aveva delle punte, e quando la punta centrale stava bene ed era quella, cioè era Van Basten, diciamo che il gioco si incanalava in una maniera abbastanza tradizionale, pur con pressing, fuorigioco, estremizzati, eccetera, eccetera, alla ricerca della giocata di Van Basten, innescato da questo o da quell'altro. Il centravanti del Barcellona oggi è lo spazio. Qualcuno dice che è Messi. Sì, è Messi entro certi limiti. Il centravanti del Barcellona è lo spazio in cui si infilano a volte Messi o Fabregas, che arriva da dietro, o Iniesta, oppure Villa o Pedro che si accentrano. I due centrali del Milan erano due grandi difensori, uno grandissimo che era Baresi, uno grande che era Costacurta, ed erano degli specialisti difensivi. Il Barcellona, adesso che è fuori Piqué e che Puyol è al tramonto, sta provando a far giocare dei centrocampisti in quel ruolo, con esiti mi sembra non esaltanti. Tutto questo per dire che 25 anni sono passati e si sentono, ecco, senza entrare nel merito poi di chi sia stato, sia più forte o meno. Diversi, secondo me, molto più diversi di quanto non appaia. Vittorio Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Devo fare due riflessioni. La prima, in una partita come quella di ieri, sulla quale concordo sul giudizio che lei prima ha espresso, nella quale c'è poco da rallegrarsi quando si è schiacciati per 75 minuti, io non ho compreso come mai il Milan, che ha un giocatore molto veloce come Manuelsson, ha un giocatore molto rapido come Antonini, si sia permesso di giocare una partita intera con un giocatore che ha camminato praticamente nel campo, che è Zambrotta, e che credo sia anche mortificante presentare in una partita di questo livello, ed un altro che probabilmente non avrei meno dovuto essere in campo per scarsa condizione fisica, qual è Cassano. Mi chiedo se lei, nell'aver visto la partita, ha avuto la stessa sensazione o se a me pare che Allegri abbia sbagliato su Cassano. Su Cassano sono non solo d'accordo, ma sono oltre quello che ero già detto prima, quello che dice lei. Su Zambrotta meno, nel senso che lì si è trattato di una scelta in cui Allegri ha privilegiato l'esperienza, evidentemente, no? Zambrotta è vero che non ha più, adesso lei dice cammina, non esageriamo, Zambrotta ha corso e come, Zambrotta ovviamente non è più nella fase ascendente della sua carriera, però di esperienza ne ha accumulata tanta, e dato che da quella parte le combinazioni tra Dani Alves e Pedro in genere, ma sempre con possibili inserimenti da quella parte di Xavi, ogni tanto di Messi, okay, diciamo che è una fase abbastanza delicatina, forse Zambrotta più di Antonini si prestava a esserci, insomma, no? a provare ad opporsi a questi dialoghi. In 30 secondi ce la fa Stefano da Treviso a dirci cosa è il suo intervento, veloce? Sì, velocissimo. Io avevo giocato alla schedina X2 il Milan perché ero fiducioso. Dopo il primo tempo sono andato a letto perché sinceramente mi vergognavo, avevo paura per loro, perché di fare una figura di questo livello. Quindi oggi sentire e vedere commenti di vario tipo dove mi dicono di un Milan che se l'è giocata, si è fatto questo e quest'altro, resto allibito e scioccato. Grazie Stefano, c'era Mauro De Angeli in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio a tutti.